Radio 24 Reportage. Alimentazione e clima. Barack Obama riparte da Milano. Di Laura Bettini. So in love. Siamo a Milano, ma sembra di stare in America. Il debutto dell'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, come ambasciatore dello sviluppo sostenibile, è una giostra di video e luci. Black, white, Latino, Asian, Native American, young, old, gay, straight, men, women. Standing ovation del pubblico ed entra lui. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Please, please have a seat. Thank you. Good afternoon. I forgot my tie. Ho dimenticato la cravatta, esordisce sorridente, per sottolineare il cambio di passo. Buon pomeriggio, is that how you say it? L'Obama della Casa Bianca è stato dismesso, entra in scena l'Obama del futuro, che vuole condividere la battaglia che nei passati 8 anni fu della moglie Michelle, quella per l'alimentazione sana attraverso la campagna Let's Move, e rilanciare gli impegni che prese lui presidente per la lotta ai cambiamenti climatici, diventati a Parigi accordi internazionali e in patria Clean Power Plan. I do not believe that any part of the world has to be condemned to perpetual poverty and hunger. Non credo che ci sia nessuno condannato alla cattiva nutrizione e non credo che il pianeta sia condannato alla distruzione per colpa dei cambiamenti climatici, dice nel suo intervento. Lo accompagna come intervistatore, anche se converrebbe dire come facilitatore della comunicazione, il suo chef negli anni della presidenza, Sam Kass, l'uomo che volle un orto nel giardino della Casa Bianca. Nel complesso si ha l'impressione di una rappresentazione studiata per essere portata d'ora in poi in tutto il mondo. Un'alternanza di contenuti seri, ironia e riflessioni sugli anni a Washington, costruita per tenere l'attenzione del pubblico fino alla fine dei 90 minuti. When you are young, you feel like you have something to prove. Sometimes you worry about making mistakes. Credo di essere diventato più umile, racconta, ma anche più forte negli anni della presidenza. Da giovane pensi sempre di dover dimostrare qualcosa, hai paura di sbagliare. Una volta che sei presidente fai un errore al giorno e tutti ti puntano il dito addosso e una fetta del tuo paese ti considera un idiota, allora a fine giornata ti dici, beh, insomma, io in fondo sono sempre qui e posso fare delle cose buone. Solo incidentalmente Obama parla del suo successore Donald Trump, che se per ora ha risparmiato l'orto della Casa Bianca, che voleva sostituire con un campo da golf, è già passato però all'attacco delle politiche per l'alimentazione e per l'ambiente, accordo di Parigi in testa. In tema di energia, la nuova amministrazione americana, dice Obama, ha intrapreso politiche diverse dalle mie. Ma la buona notizia è che tanto ormai il settore si è riorientato verso le energie verdi. The private sector has already made a determination that our future is in clean energy. Quindi Obama non si preoccupa troppo perché si fida dell'impresa, da americano. Ma non si preoccupa nemmeno Giovanni La Via, che in quanto presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo partecipò alle trattative per l'accordo di Parigi, anche se La Via parte da considerazioni diverse. L'accordo di Parigi ha una portata e una gittata estremamente lunga, arriva alla fine in termini di effetti, alla fine di questo secolo, in termini di obiettivi, di azioni da intraprendere. Dall'altro lato abbiamo previsto delle clausole di fuoriuscita dall'accordo di Parigi che sono estremamente lente, faraginose, per cui non credo che Trump nel proprio mandato abbia nemmeno il tempo di pensare di poter uscire dall'accordo di Parigi. In questo momento non ha fatto niente per recedere formalmente, ha semplicemente detto che non crede nella lotta al cambiamento climatico ma non recede a quegli accordi. Vedremo cosa accadrà nei mesi e negli anni che verranno. Non credo comunque che gli Stati Uniti faranno un passo indietro, rimarranno all'interno, forse non marciando unitamente, uniti con gli altri 194 paesi, ma sicuramente non recederanno, secondo me. Io credo che l'impresa americana si debba adeguare, perché non vuole rimanere indietro in termini di tecnologia, rischierebbe di perdere in termini di capacità competitiva in un mercato globale quando tutti gli altri si muovono verso tecnologie verdi e non penso abbia interesse a rimanere su posizioni arretrate e conservatrici. A huge percentage, maybe 30%. Tra i dati che Obama riferisce sulla nutrizione alcuni sono noti, ma altri decisamente meno. Negli Stati Uniti il primo motivo di rifiuto di domande di ammissione all'esercito è l'obesità e per lo stesso motivo si spende un terzo del budget per la sanità americano. Mentre si sa, altrove nel mondo vivono quasi 800 milioni di persone che non hanno abbastanza cibo. Se alla fame aggiungiamo i cambiamenti climatici, con il loro carico di desertificazione da qualche parte e inondazioni da qualche altra, non possiamo stupirci poi delle migrazioni cui assistiamo in Europa, ma non solo. Enrico Giovannini, portavoce ASVIS, Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile. Il futuro, purtroppo, è a rischio di shock molto gravi. Da un lato il cambiamento climatico che colpirà in particolare delle fasce del mondo che già sono in difficoltà, quelle che Lucio Caracciolo chiama Chaosland, cioè tutta l'area tropicale intorno all'equatore, e noi dovremmo essere particolarmente interessati come Italia, visto che siamo un po' ai confini di questo Chaosland. Ma poi ha a che fare con la stabilità politica. Non dobbiamo dimenticare che le primavere arabe di qualche anno fa nascono a causa di siccità che portarono i prezzi dei beni agricoli e quindi beni alimentari a schizzare verso l'alto. Non c'era nell'area appunto subsahariana o nel Nord Africa abbastanza energia elettrica perché le poche piogge non facevano funzionare come dovevano le centrali idroelettriche e tutto questo portò una rivoluzione forte, una richiesta forte da parte soprattutto dei giovani, il cui effetto poi lo vediamo negli anni anche in termini di migrazioni, quindi è tutto collegato. Questo è uno dei messaggi che credo sia importante dare e che i leader devono dare per aiutare anche i cittadini a connettere i puntini, come si dice, e capire che quando si parla di certe politiche poi si parla anche del loro impatto su altre dimensioni, magari molto urgenti. Clima e nutrizione sono parte degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile che si è posta l'ONU e a seguire l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile di Giovannini, ma certo sono due macro aree essenziali. Come si affrontano? Obama pensa ai giovani e alle tecnologie. So Matteo and I and others have been talking about how we can create. Ne ho parlato con Matteo Renzi, ha detto in una delle non rare citazioni dell'ex premier italiano. Vogliamo creare un network tra coloro che si impegnano per un futuro più sostenibile e aiutarli a conoscersi e crescere. Paolo De Castro è primo vicepresidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo. Ha apprezzato particolarmente il discorso sulle biotecnologie. Sul tema dell'innovazione, delle biotecnologie, ha voluto affrontarlo tenendo ben distinto quelle che sono le vecchie biotecnologie, diciamo gli OGM tradizionali, quelli che chiamiamo i Frankenstein food da noi, rispetto a quelle che sono le new breeding techniques, le nuove tecniche di ibridizzazione che in realtà sono ottenute attraverso miglioramenti genetici intraspecie, cioè senza spostamento di geni, e si è voluto soffermare proprio anche molto, molto tecnicamente, diciamo, sull'aspetto, indicando nel genoma editing, nella crisogenetica, insomma, in queste nuove tecniche un futuro perché allargano il campo diventando diciamo attuabili anche senza grandi economie di scala, quindi senza lasciare solo alle grandi multinazionali lo spazio, ma aprendo a tutti i piccoli centri di ricerca. Più volte Obama ha insistito sulla necessità che anche l'agricoltura tagli le sue emissioni di CO2, perché è il secondo comparto per quantità di emissioni, ha sottolineato. Le lobby agricole sono molto forti, ma bisogna insistere, ha detto. Come va in Europa? Chiediamo a De Castro. Siamo avanti anche perché abbiamo già sul tavolo del Consiglio e del Parlamento la proposta del commissario Miguel Cañete, che è una proposta che ovviamente è in fase di discussione e che impegna gli Stati membri ad un obiettivo di riduzione che vede coinvolti tutti i settori produttivi, agricoltura compreso, e questo è sicuramente sarà oggetto di grandi dibattiti, ma l'obbligo è di arrivare, di raggiungere quegli obiettivi di riduzione delle emissioni. I believe we can seize this future together. Lo Yes We Can è tornato a risuonare. Yes we can. Yes we did. Yes we can. Thank you. God bless you. E per il bene del pianeta, speriamo che ce la faccia anche questa volta. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.